Perfetto, che sia risolto. Ah beh, quello sì, va bene, come confronto la volta, va bene, 20 settembre riceve la metà, però mi accontento di quel del poco, mi accontento. Ma è a volta arrivare e anche ricevere. E a parte il basso, se fa stato come una volta alto, quasi 5 metri, avrei ricevuto il doppio, però avrei avuto anche il doppio del QRM, invece in questo caso qua, con questa tela ha dimezzato tutto, capito? Mi va bene così. Un domani magari mi prestiamo una Super LM, una bella antenna, un bel apparecchio. E a me lo dicevo bene, trasmetto bene. Senza lineare, saluta, me ne fai allora il lineare. Senta, beh, con l'apparecchio là com'è? Spiegamelo, descrivimelo com'è. Quello che devi pigliare. Ho detto, vai su internet e scrivi apparati HF cinesi e ti appare il c'è un animatore, c'è una sigla dell'animatore, entri lì e c'è questo apparecchio qua che sta usando, poi vai più avanti e ti appare un coso, una schermata come in pratica costa $400 quell'apparecchio lì, capito? Però quanto sembra invece di riuscire a farlo avere anche per €200 lì. Se lo chiedi a un cinese, se conosci qualche cinese, tu lo dici, te lo fa avere anche per €200, dipende da quanti ne fai arrivare, il discorso è quello. Se ne fai arrivare uno o due, ne paghi meno 300-400 euro, invece ne paghi la pari 40-50, la cosa si dimezza, no? Perciò è riuscita. Vai in quel sito, tutto sto dicendo, c'è la sigla di un animatore, entri lì e ti guardi il suo sito. È veramente bello quel sito che c'ha, c'è l'apparecchio, poi ti fa vedere anche le macchine solari, ti fa vedere il coso meteo, ti fa vedere un sacco di roba, la propagazione, i giorni, a che ora c'è la propagazione, quanta ce n'è, capito, la copertura. Tu entri lì e ti diverti. Ti fai naturalmente la traduzione da inglese a italiano e è veramente bello quel sito. Si chiama Fedong, si chiama l'apparecchio, Fedong 808. KK. E che frequenza fa? Da 0 a 30? Da 0 a 29,999 fa. Accidenti. Beh, c'è anche su YouTube, poi te lo fa sentire. Basta scrivi Fedong su YouTube e ti guardi, c'è l'immagine, col coso, c'è l'audio, è registrato come lui faceva di ex, cosa del genere. C'è scritto, ti fa sentire come funziona l'apparecchio. Comunque, a quanto sembra è molto, molto buono, all'orezzo e c'è una bella versa, capito? Perché guardi su computer te lo controlli subito. Su computer non posso perché ce l'ho bloccato. E vabbè, allora c'è problema. Anch'io vabbè ce l'ho bloccato adesso perché mi stavo facendo l'aggiornamento del come si chiama. Quindi c'erano alcuni errori da sono stati eliminati. Capito, adesso vai nello sistema là, adesso vediamo un po'. Perché io ho letto, io ho Pentium 3, cioè, la verità. Adesso vedo di comprarmi un Pentium 4 e così almeno c'ho tutto. Io ce l'ho ancora perché ho cambiato operatore e adesso devo comprarmi il modem. Perché questo modem che c'avevo di Telecom non va bene. Telecom ha bloccato gli altri operatori, il modem è suo, capito? E Fastweb nemmeno ce l'hai, quindi cosa sei, Windows? Se non ti fai, sai cosa fai? Ti compri quello da 3M e te lo agganci, wireless, e te lo salto in culo. Sono 3 euro alla mese, a settimana, se non mi ricordo. Ti piazzi quello dentro casa che fai prima. Io ce l'ho a rete dentro casa, il computer ne ho 4, capito? Allora cambiati, la rete, cosa vuoi elettronica. Io cosa ho fatto quella pece volta, tu dicendo? Se tu sei padre, guarda la faccio, beh, basta per le luci, c'ho tutto. Ho pagato che fatti la il coso, poi adesso ce l'ho tutto io, la cittadina, il coso, di tutta la cafetteria, non è mai stato utilizzato, sì, hai capito? Perché il fratello l'ha agganciato per un mese, poi l'ha preso per il culo, l'ha preso e l'ha attaccato tutto. L'altro che ha fatto lì, detto, dice no, non lo voglio neanche sapere. Come è, sono entrato? Arrivo subito, già, due minuti. Atento mi hermano de la Scusiana Sardini, adelante. Beh, Roberto e Alicio, ci siete? Cicu, cicu, cicu.